Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata cari radioascoltatori, alle 11:10 di sabato. Ebbene, oggi parleremo di un argomento molto particolare. In passato abbiamo parlato di bottiglie griffate, abbiamo parlato di etichette di design, di cantine fatte da archistar. Ebbene, oggi torneremo terra a terra a parlare di damigiana, di fiasco e di vino sfuso. Perché questo? Perché vorrei riuscire a capire anche col vostro aiuto, il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, se c'è un ritorno al vino sfuso o al vino, diciamo, in grandi contenitori, oppure è semplicemente un'impressione o è sempre stato così anche in tempi di vacche grasse. Ora sicuramente le vacche sono molto più magre e allora andiamo un po' a verificare cosa succede in giro per l'Italia su questo argomento. Allora cominciamo da Milano, cominciamo da una vineria con Aaron Brussolo. Buongiorno Brussolo. Buongiorno Davide. Buongiorno. Lei Brussolo ha aperto una vineria dove vende vini sfusi. Le chiedo, funziona? Diciamo che funziona più oggi, diciamo nell'ultimo anno rispetto in passato, oppure il consumo dei suoi clienti è sempre lo stesso? Allora, direi che secondo me comunque coincide tutto col passaggio dall'euro, direi questo, che comunque ci dimostra che i prezzi sono raddoppiati in tutto, ovviamente questo ha trascinato anche dietro il vino. Pertanto io, anche se ho aperto poi nel 2005 in realtà l'attività, ma ho visto un ritorno del vino sfuso soprattutto nelle province Firenze e Venezia, quindi anche quelle più legate al settore vinicolo, al ritorno della vendita del vino sfuso in città. Ecco, ma ritorno per i prezzi e ritorno perché magari la gente non voleva averne molto più in casa senza andare a comprare bottiglie chiuse, chiamiamole così, etichettate di costo, oppure c'è un motivo, che ne so, romantico su questo? Ah beh, sicuramente la componente romantica fa gioco, però appunto parliamo innanzitutto secondo me di un abbasso dei costi e poi di una grande sensibilizzazione anche all'ecologia, quindi al riutilizzo del vetro e insomma tutto di conseguenza ha riportato in voga questo riadattamento a un vecchio sistema di vendita, ecco. Bene, vorrei ricordare ancora il numero verde 800 24 00 24. Perché? Perché mi piacerebbe sapere dai radioascoltatori, da chi vuole intervenire, se comprano vino sfuso, come lo trovano, oppure se sono completamente contrari. Bene, abbiamo con noi un osservatore del mondo del vino, molto attento, che è Alessandro Regoli, fondatore e direttore di Wine News. Buongiorno Alessandro. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Tu che hai un po' così, diciamo, sotto mano la sfera di cristallo e il controllo di quello che succede, è un fenomeno di ritorno o un fenomeno che c'è sempre stato, magari ce ne siamo accorti solo ora? Ma in realtà c'è sempre stato, soprattutto nei territori anche, diciamo, a grande vocazione anche vitivinicola, insomma, l'uso della damigiana o l'uso anche delle bottiglie di infiascarsi e di imbottigliarsi il vino c'è un po' sempre stato. Forse sì, poi un po' si è perso come abitudine e poi invece ora sta un po' tornando. Bisogna capire bene se è un fenomeno, diciamo, di low cost, se è un ritorno all'uso quotidiano oppure è un po' di, c'è anche un po' di romanticismo come dicevate voi, insomma, quindi bisogna capirlo bene, insomma. Sul piano dei costi sicuramente c'è del risparmio, considera che anche un IGT Toscana va sui 0,4-0,6 al litro e quindi presumo che anche in altri territori sicuramente i prezzi o sono questi o sono addirittura inferiori, però poi dopo c'hai comunque da metterci magari sopra l'aspetto del tappo, della bottiglia eccetera, quindi insomma oggi si trova anche negli scaffali, si trovano anche dei vini a 0,90 degli ottimi Chianti o dei siciliani o anche dei vini veneti, insomma voglio dire nei grandi supermercati, quindi non so, ecco, è un fenomeno un pochino forse da da analizzare, quindi c'è un po' tutto secondo me, c'è un po' di low cost, un po' di ritorno anche a questa abitudine e un po' di romanticismo, insomma c'è un po' tutte e tre di queste componenti secondo me. 800 24 00 24, intervenite, raccontatemi le vostre esperienze, sms 349 238 6666. Sentiamo Franco da Vicenza, radioascoltatore, buongiorno Franco. Buongiorno, è un piacere tornare a parlare con lei. Allora, secondo me in questa zona, specie io sono nella provincia di Vicenza, c'è sempre stato l'uso del vino in damigiana, soprattutto il Cabernet, il Merlot, il Piave. Io li chiamo i vini da sagra. Io credo che come produttore, io sono un produttore, credo che i produttori seri non accetterebbero mai vendere il vino in damigiana, perché la bottiglia è il nome, porta il nome, porta la garanzia e tu garantisci il prodotto e ci metti la faccia. In damigiana ho visto addirittura vendere il Cabernet, dico un dicitura Cabernet morbido, io non so cosa può volesse significare quel grossista lì scrivendo Cabernet morbido, io credo non sia neanche a termini di legge poter scrivere una cosa così. Secondo me è una questione sia economica ma anche di cultura del vino, che è ancora bene in larga parte. Grazie Franco, non tutti i produttori la pensano come lei, come vedremo durante il corso di questa trasmissione, anche produttori di grande nome. Silvano dalla provincia di Alessandria, un altro radioascoltatore. Buongiorno Silvano. Buongiorno a lei, mi sente? Sì, prego, prego, parli. Io lo so dire che io sono circa 20 anni, consumo vino sfuso in damigiana, li diverto, non in bottiglio. Esistono le cantine sociali, dove si va tranquillamente a fare la gita di domenica a prendersi il vino, costa decisamente molto meno di tutte quelle vinerie che sono sorte adesso, dove ovviamente c'è un passaggio in più. E poi ho anche notato nella mia media lunga esperienza di consumatore di vino che non sempre il privato è indice di qualità, e poi si scopre che il privato porta l'uva in cantina sociale e va a ritirare il vino. Quindi io deduco che comunque è più sorvegliato una cantina sociale o comunque gestita da enologi e professionisti vari. Quindi non ci trovo tutto questo stupore che si sta vedendo in giro. Molto ovviamente è una moda, le vinerie vendono un vino che la cantina sociale viene venduta a 1,10€, 1,20€ sfuso al litro, alla vineria allora si vende anche 1,60€, 1,70€. Grazie Silvano, sicuramente non è la moda, perché il vino sfuso è sempre esistito. Quindi allora abbiamo una produttrice con noi, abbiamo un'eccellente produttrice di Piacentina, di Vico Barone, abbiamo Ludovica Lusenti. Buongiorno Ludovica. Salve Davide. Buongiorno. Senta Ludovica, voi vendete vino in damigiana, quindi sì. Perché? Perché questa decisione? Allora, prima di tutto diciamo che il vino in damigiana fa parte un po' della tradizione piacentina, quindi per me proteggere quella che è l'esperienza del passato è importante, senza dimenticare diciamo quello che è il futuro, quindi l'innovazione, tutto quello che è la bottiglia, perché sa benissimo che anch'io faccio vino in bottiglia. Certo, certo, ottimi vini in bottiglia, per cui per carità l'ho premesso. Grazie. E, però questo non vuol dire diciamo cioè dare in damigiana un prodotto di qualità che sia un prodotto che rispecchia diciamo poi quello che è il vino in bottiglia, semplicemente il vino in bottiglia viene trattato diversamente, ma diciamo nella fase diciamo finale. Dare un vino in damigiana per me vuol dire non è tanto romanticismo, ma per me chi viene a prendere il vino secondo me fa uno sforzo in più rispetto a quello che può essere il consumatore che prende il vino nello scaffale del supermercato. Cioè, quindi dimentichiamoci un pochettino il discorso del basso costo e basta, perché è molto più semplice per la massaia prendere un bottiglione o nel Tetra Pak, non lo so, quello che può essere un litro di vino, rispetto al certo fatto di prendersi la macchina, venirsela a prendere, assaggiarselo, dire anche di no, non mi piace, quindi non l'acquisto. Quindi bene, poi alla fine diciamo che un'esperienza, insomma, cioè tu dici diciamo vive un'esperienza. Alla fine dobbiamo offrire un vino di ottima certo qualità anche qua, perché poi cioè non è che il consumatore poi alla fine sia sempre certo diciamo il consumatore che non, cioè così inesperto. Io lo faccio perché mio padre lo faceva e quindi cioè, porta avanti diciamo questa tradizione. Bene, bene Ludovica, rimani con noi, sentiamo Vito da Trieste, un radioascoltatore. Buongiorno Vito. Ah, buongiorno e buona trasmissione. Guardi, io sono appassionato di vini, no? E secondo me oggi che la gente va a prendere il vino sfuso non è che lo fa per risparmiare, perché oggi non ci sono possibilità. Per avere un buon vino ci vogliono, secondo me, dai 7 ai 10 euro alla bottiglia. Noi abbiamo qui sul Coglio, io vado a prendere i vini sul Coglio, che sono quasi i migliori vini del mondo. Io lo pago un vino DOC sfuso a 3 euro al litro. Bene, grazie Vito della sua testimonianza. Abbiamo con noi ora il nuovo presidente, da un po' di mesi, presidente dell'AIS, Antonello Maietta. Buongiorno Antonello. Eccomi Davide, buongiorno. Ecco, cosa voi come AIS, come Associazione Italiana Sommelier, appunto, che siete su tutto il territorio e monitorate quello che succede sul mondo del vino più di ogni altro, cosa ne pensi? Perché io guardando, così preparando questa trasmissione, mi sono reso conto che è un fenomeno abbastanza consistente quello del vino sfuso, del ritorno del vino in Damigiana. Tutti pensano che sia la crisi che così si è fatta sentire e quindi un fatto di costi. Tu cosa ne pensi? Ma guarda, noi come osservatorio, che come ben sai è un osservatorio un po' privilegiato, ci siamo un po' preoccupati di analizzare questo fenomeno, ecco, ci corre un po' l'obbligo morale quando percepiamo una tendenza di trasferirla ai produttori, di comunicarla, di raccontarla. Tutto sommato ti dico, non è così significativo come volume, ecco, è soltanto più visibile rispetto al passato. Cioè, nel senso, prima il vino sfuso si comprava soltanto dove? Dal produttore, nella cantina sociale, eccetera, eccetera. Oggi il vino sfuso lo compri anche negli ipermercati, lo compri anche in alcuni punti vendita che sono specializzati nel tenere una gamma abbastanza rappresentativa. Quindi, diciamo, non c'è una posizione di AIS più o meno favorevole, ecco, c'è una posizione di AIS sicuramente a favore della qualità. Ecco, non sempre in questi contesti c'è un profilo qualitativo, o meglio la qualità è un po' talvolta modesta. Ecco, rimani con noi, ricordo numero verde 800 24 0024. Sentiamo un altro radioascoltatore, Massimo da Livorno. Buongiorno Massimo. Buongiorno Davide, complimenti per la trasmissione. Dimmi. Allora, niente, anch'io mi sono avvicinato questi anni, vabbè, sono toscano, sicché di conseguenza il vino qua da noi è un'arte, ma come un po' tutta l'Italia, perché siamo messi molto bene, e comunque sia, fai conto, un aneddoto, ho fatto dei regali, ho fatto delle bottiglie, ma prendendo un vino che sul mercato etichettato, lo scaffale, andava dai 7 ai 12, 13 euro, perché era un vino di Borghese, molto buono, di ottimissima qualità, pagandolo meno di 3 euro quasi e poi etichettandolo personalmente, anzi dedicandolo ai miei amici, 20 bottiglie, insomma neanche più di tanto, ho fatto regali e sono rimasti sorpresi poi alla fine, perché la qualità ottima e praticamente è una cosa che ritorna un po' al romanticismo un po' vecchio, insomma, certo. Le cose che venivano fatte prima, ecco, insomma, di che ritengo che sì, c'è l'aspetto economico, ma comunque sia nella nostra zona, ma comunque sia in Italia, sono convinto che pur avendo un vino sfuso si può avere di ottima qualità. E sicuramente pagando quasi meno della metà. Grazie Massimo. Sentiamo Filippo, sempre dalla provincia di Livorno, un altro radioascoltatore. Sì, buongiorno. Allora, dunque, secondo me è utilissimo andare a prendersi il vino con la Damigiana e non magari nelle stagne già preconfezionato. Primo perché si può scegliere e va, bisogna andare alla cantina, bisogna andare, non ai consorzi o alle cooperative sociali. Dalla mia esperienza, io abito nell'area vicino Borgheri, quindi insomma dove ci si gira c'è l'imbarazzo della scelta. E poi ci sono due prodotti che si possono fare oltre che bere il vino, l'attività di bere il vino, cioè l'aceto. Una parte del vino si può dedicare a fare il proprio aceto, avendoci la madre dell'aceto, e poi la grappa, o meglio, si può fare il brandy, non la grappa, con un piccolo alambicco. Bisogna stare molto attenti però a fare questo dal punto di vista igienico, infatti stare... però con un po' di accortezze, con un buon alambicco, certo, fatto bene, uno si fa un distillato e magari si fa un distillato partendo da una base ottima, cioè un vino, insomma, tutto... che magari... Filippo, lei non compra niente, fa tutto in casa, insomma, da aceto, aceto, vino e manca l'olio, poi siamo a posto. No, infatti io fortunatamente produco l'olio, quindi sono di turismo. Ha fatto l'amplen allora. Bene, grazie Filippo di questo servizio completo. Torno ad Antonello Maietta per chiedere, Maietta, ma ci sono i controlli. Quello che mi preoccupa un po', io non ho, figurati, non ho niente, ho bevuto anch'io dei vini sfusi eccellenti, però dovrebbero, cioè sia le vinerie sia nei locali, perché sono moltissimi i locali, non dimentichiamolo, io ho chiesto a moltissimi locali di intervenire, tutti hanno detto ni e non sono voluti intervenire, ma ci sono moltissimi ristoranti, trattorie, osterie, chiamiamole come volete, che hanno vino sfuso. Ecco, bisognerebbe che ci fosse molta informazione, c'è una cartella informativa come c'è per tutti gli altri alimenti. Tu cosa ne pensi? Sì, ma diciamo che i controlli ci sono tanto quanto, nel senso anche nel prodotto venduto sfuso ci deve essere comunque il cartellino di riferimento della provenienza, a meno che non sia, diciamo, il classico vino da tavola, eccetera. Io tra l'altro, quando prima dicevo che la qualità tende ad essere modesta, non vorrei essere frainteso, nel senso il mio messaggio vuole essere quello: volete comprare vino sfuso, benissimo, andate a comprarlo direttamente dal produttore, che sia cantina sociale, che sia produttore privato, nel senso che oggi stanno pullulando delle attività commerciali che hanno riferimenti un po' da tutta Italia, ecco, dal Veneto alla Sicilia, eccetera, eccetera, i prezzi tutto sommato sono bassi, è chiaro che in tutto questo contesto di ricarico, evidentemente alla produzione il prezzo è ancora più basso, quindi prezzo basso significa molto spesso prodotto modesto. Ecco. Bene, grazie ad Antonello Maietta, presidente dell'AISA, Ludovica Lusenti, io continuo con i radioascoltatori, Claudio dalla provincia di Vicenza, buongiorno Claudio. Davide, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Io ho la fortuna di abitare, penso, su una bella zona, a cavallo tra le due province, di quella di Verona e di Vicenza, la zona del Soave, parliamo della zona del Soave, la zona del Gambellara, la zona del Durello e di qualche buon vino rosso anche, dove c'è una buona produzione. E mi sono accorto, dopo la brutta parentesi, diciamo, degli anni Ottanta, sappiamo che è stata quella del metanolo, sì, dove la gente si era fermata un po', adesso sto rivedendo la gente che ricompra il vino in damigiana, va dal produttore a prendere il vino in damigiana. Vedo tante persone, soprattutto dalla zona di Milano, della Lombardia, che vengono giù, vanno dal contadino o anche alla cantina sociale, per citarne qualcuna, a prendersi il vino in damigiana, perché abbiamo dei buoni prodotti in damigiana, e non è vero che non vengono fatti dei buoni prodotti, vengono fatti veramente dei buoni prodotti in damigiana, ma non solo perché spendono poco, perché forse si ritorna un po' anche al genuino, cioè non so se mi spiego bene Davide. C'è qualcuno che dice, bene, adesso anche i contadini, il contadino che è diventato un imprenditore è capace di produrre il vino buono, me lo dà in damigiana, spendo poco però ritorno anche alle origini. Bene. Io la ringrazio, l'ascolto. Grazie Claudio di questo suo escursus. Sentiamo un radioascoltatore, Renzo da Padova. Buongiorno Renzo. Buongiorno Paolini, sono Renzo Maggiero da Saonara in provincia di Padova. Sì. Io sono 35 anni che compro il vino sempre dalla stessa cantina Cormons nel Collio, in Friuli, e me lo imbottiglio ogni volta che porto a casa damigiane. Vado su ogni mese, porto a casa due damigiane, mi lavo le mie bottiglie, le risciacquo col vino. E dopo i tappi di sugo con la macchinetta, lei non sa quanta gioia e quanta felicità mi dà. Per me è come rilassarmi dallo stress del lavoro, e non le dico altro. Bene, perché... grazie Renzo della sua testimonianza romantica. Abbiamo detto che c'è un aspetto romantico e lei ce lo ha illustrato. Ora andiamo da un grande produttore, sicuramente uno dei più conosciuti produttori italiani nel mondo. Le sue bottiglie sono cult. Eppure questo produttore, ora ce lo racconterà lui, in bottiglia, cioè vende anche vino in damigiana, addirittura c'è una corsa, forse il culto sono diventate anche le sue damigiane. Buongiorno Francesco Valentini. Davide, buongiorno. Francesco, come spieghi un produttore così, cioè noto, quindi un'azienda così nota da ormai 30-40 anni, eppure voi avete avuto sempre questa, diciamo, abitudine, questo rito di vendere anche il vino in damigiana, perché? Noi abbiamo sempre venduto il vino in bottiglia, siamo sempre stati molto attenti a questa forma di commercializzazione, perché come tu ben sai noi imbottigliamo il vino, però non facciamo delle linee, seconde linee o linee di base, per cui è naturale avere questo sfogo, che è quello del vino sfuso. Poi, essendo la nostra una produzione diciamo artigianale, quindi è una produzione limitata nel quantitativo, ecco che accade che questa richiesta diciamo che abbiamo del vino viene normalmente proposta durante un determinato periodo, cioè non tutto l'anno, è una commercializzazione molto strana, diversa, nel senso che noi abbiamo delle richieste durante l'inverno e poi dopo, durante il periodo primaverile, perché essendo questo un vino che non ha diciamo delle manipolazioni particolari, per cui ha dei tempi di decantazione, non viene filtrato, viene normalmente consegnato durante il periodo tarda primavera e inizi dell'estate. Stiamo parlando del Trebbiano, Trebbiano d'Abruzzo. Trebbiano del Cerasuolo. Quello che è interessante, perché stavo anche ascoltando quella dichiarazione di quel signore, è che quello che io noto nell'arco di 30 anni è che la commercializzazione è sempre fatta a più o meno gli stessi clienti, cioè c'è una certa costanza, addirittura i figli di certi clienti anche loro seguitano, perché evidentemente si abituano a questo gusto, al gusto di questo vino, e quindi cercano di prenderlo tutti gli anni. Poi quello che sto notando, che è molto interessante, è che c'è anche un cambiamento, probabilmente dovuto a una certa stanchezza di mercato, dovuto a una stanchezza più che una stanchezza di mercato, una certa crisi diciamo, certo, economica, un aumento di richiesta da parte dei ristoratori, cioè chi vuole proporre un prodotto artigianale e a una certa clientela viene qui da noi e lo prende. Sono clienti come i privati che non vengono soltanto dalla nostra regione ma anche da altre regioni. Sì, io ne conosco un paio, quindi vengono anche da altre regioni. Esatto. Quindi, al di là di questo aspetto commerciale, c'è un'altra cosa che ho notato che è molto importante, è l'aspetto culturale. L'aspetto culturale, cioè chi prende il vino sfuso, in un certo senso, il cliente che prende il vino sfuso è un cliente diverso da il cliente che usa normalmente la bottiglia. È chiaro che il cliente che compra la bottiglia è attento a quello che scrivono i giornali, le riviste del settore. Però il cliente che prende il vino sfuso ha qualcosa di diverso in più, in che senso? Che lui, come diceva quel signore, partecipa alla vinificazione, quindi è molto attento a comprare i contenitori adatti all'epoca dell'imbottigliamento, soprattutto per i vini artigianali, che sono dei vini che non hanno delle forti stabilizzazioni, quindi bisogna stare attenti all'epoca dell'imbottigliamento, alle condizioni atmosferiche, alla pressione, alle fasi lunari, e poi quando vengono parlano tra di loro, si consigliano, dice tu come hai fatto, io come ho fatto, si riassaggiano delle bottiglie che hanno imbottigliato. Insomma, si forma una comunità, la comunità degli acquirenti. Esatto, è un modo diverso, certo, di vivere, non solo da spettatori, ma anche è un modo per partecipare. Ecco, quindi questo mi farebbe venire in mente, non lo so, di proporre alle riviste del settore, alle guide, perché non fare anche una guida dei vini sfusi. Bene, grazie Francesco, grazie, ci hai esaurito tutto un argomento di argomenti che volevamo approfondire. Sentiamo, ora abbiamo tanti radioascoltatori, sentiamo una signora o signorina, Eva, dalla provincia di Ascoli Piceno. Buongiorno Eva. Buongiorno Castronauta. Volevo più o meno confermare quello che ha detto il signore che ha parlato proprio adesso. Io sto in una zona che è proprio ricca, ricchissima di consorzi, cooperative, produttori locali che fanno tutti dei ottimi vini. Nell'ambito del mio lavoro ho tantissimi contatti con stranieri che vengono a assaporare questa nostra zona e quasi tutti si portano via quando tornano in Germania, in Inghilterra, in Olanda, le damigiane imparano qua di poter imbottigliare. Bene. E si portano via i vini nostri locali, i bianchi li conoscerai, il pecorino, sì. Passerina, Falerio, in quantità veramente notevoli. Quindi esportiamo anche vino sfuso, insomma, volevi dire questo? Volevo dire questo, perché cosa rappresenta la Damigiana? Chi ha un legame, viene qua perché ha qui la casa, sì, si porta all'estero un po' di territorio. Le bottiglie fatte con le Damigiane, si crea la sua etichetta. Sì. E dice ai suoi, lo regala ai suoi amici, sia il vino sia l'olio confezionato a posto, e sei a posto con i regali per Natale, per il nuovo anno. Grazie Eva, abbiamo capito che così abbiamo anche degli aficionados stranieri sul vino sfuso. Sentiamo Michele da Cagliari, buongiorno Michele. Buongiorno, io la ringrazio, volevo parlare soprattutto del vino di garage, che poi è la forma più elementare di vino di proprietà, che può essere anche venduto sfuso, e ha come caratteristica quella di non essere filtrata, di non avere chimica all'interno, di non avere tannini, di non avere mannoproteine, di non avere quella omologazione dei vini internazionali, di cui molto si è discusso sia nel film di Nociter, sia nel suo libro. E poi volevo fare una raccomandazione a chi ci ascolta di tornare un po' indietro e di leggere Vino al vino di Mario Soldati, che può essere sicuramente, certo, esaustivo di tutte le nostre problematiche di oggi. Grazie Michele, sentiamo Giancarlo dalla provincia di Imperia, buongiorno Giancarlo. Pavini, ho sentito che, se non sbaglio, il vino sfuso si può acquistare a 0,40 al litro nella zona toscana. Sì, prendiamolo con beneficio di inventario, un radioascoltatore. Quindi... Sì, d'accordo, però quando vado in pizzeria io prendo sempre il mezzo litro di vino sfuso, e quasi tutte le pizzerie della città lo vendono a 4,50 euro a mezzo, una caraffa da mezzo litro, quindi 9 euro al litro. Si pensava che il caffè fosse quello dove c'è più ricarico quando si va a bere la tazzina, e invece adesso mi stupisce questo. Bene, è una scoperta che facciamo anche noi con lei. Sentiamo Giuseppe da Milano, velocissimo Giuseppe. Buongiorno Davide. Allora, la cosa interessante di comprare vino sfuso, io ho 40 anni, è che l'ho fatto con mio nonno quando ne avevo 10, l'ho fatto con mio papà quando ne avevo 30. E poi, girando il mondo e bevendo vini e leggendo di vino un po' più di alto rango, diciamo così, una cosa non esclude l'altra. Sono tornato a comprare vino sfuso perché è un fatto esperienziale, è un tornare alle fonti, è un tornare a avere un'esperienza con il produttore o con la cantina. Quindi è una cosa che non esclude l'altro, anche l'avere una certa cultura del vino, è amare il vino. Eccoci di nuovo a parlare di vino sfuso, vino in damigiana, ma anche vino in fiasco, e udite udite, non in Toscana, bensì in Emilia. Buongiorno Federico Orsi del vigneto. Ciao Davide, buongiorno a tutti gli tuoi ascoltatori. Vigneto San Vito a Monteveglio, provincia, esatto, di Bologna. Ma come mai avete deciso? Tra l'altro devo dire che Federico Orsi, così come la Lusenti, sono produttori di vini naturali, che abbiamo sentito prima. Come mai questa idea di ritirare fuori il vino in fiasco? Allora, l'idea è nata proprio da quello che diceva Valentini prima, che i clienti tendenzialmente sono due clienti, due fasce di clienti totalmente diverse, quello della bottiglia e quello della damigiana. Io mi ritrovavo ad essere, diciamo, quello della bottiglia come cliente, però logicamente la bottiglia, cioè l'abito di aprire la bottiglia a casa, cioè quindi il bicchiere di vino a pasto, l'avevo perso obiettivamente, cioè ce l'avevo con mio nonno con il vino in damigiana, ma da solo non mi veniva naturale aprire la bottiglia, diciamo, a tavola. Quindi l'idea è stata quella di cercare di intercettare e stimolare questo nuovo fabbisogno, quindi di portare un vino di grande qualità, perché stiamo parlando del fratello gemello praticamente del nostro vino di punta, che è un vino biodinamico sia in cantina che in campagna, e che diciamo, enoteca costa 15-18 euro, in ristorante può costare 25 euro, riportarlo in una confezione riutilizzabile, quindi sostenibile, e proporlo al mercato. Infatti oggi mi trovo al mercato della terra di Bologna, organizzato da Slow Food, dove noi facciamo la vendita diretta e dove il nostro cliente viene con il col fiasco che acquista la prima volta, personalizzato, quindi noi ci mettiamo la faccia, quindi anche lì un po' di qualità, ma dove noi ci mettiamo la faccia, dove spieghiamo come viene fatto questo vino, e torna dopo settimana. Bene. Aggiungo poi, scusami, che il fatto stesso che questo, diciamo, consumo è settimanale, fa sì che noi logicamente non dobbiamo minimamente manipolare questo vino, perché non devo neanche fare l'ultima aggiunta di solforoso prima di andare in bottigliamento, perché verrà consumato in una, due, tre, quattro settimane, comunque non saranno degli anni in bottiglia. Certo. Hai capito? Grazie a Federico Orsi. Ora sentiamo un radioascoltatore dalla provincia di Venezia, Sebastiano. Buongiorno Sebastiano. Buongiorno Davide, complimenti per la trasmissione innanzitutto. Dimmi. La mia testimonianza è quella che io sto tornando adesso in questo momento da prendere del vino da Val d'Abbiadene. Ovviamente prosecco, perché non è che si possa acquistare altro Val d'Abbiadene. Però quello che volevo dire è che soprattutto un discorso di festa, nel senso che adesso noi siamo in 12-13 persone, ognuno porta a casa la propria fiasca e poi ad aprile, quando è il tempo giusto, ce ne imbottigliamo e facciamo un'altra festa praticamente. Quindi oltre a un risparmio economico abbiamo anche un discorso di socializzazione, secondo me. Ho capito, sì, certo, l'abbiamo riscontrato anche da altri interventi, grazie. Ora andiamo a Sorbara, andiamo alla cantina di Sorbara dal presidente della società cooperativa Carlo Piccinini, perché loro hanno lanciato in grande stile la vendita in Damigiana. Buongiorno Piccinini. Buongiorno. E funziona bene questa vendita in Damigiana? La vendita in Damigiana, noi sono la nostra cantina, che è una cantina storica del 1923, la fa dalle sue origini, quindi noi stiamo semplicemente perseguendo quella che è la nostra tradizione. Devo dire che purtroppo però rispetto ai commenti degli ospiti precedenti, per la nostra cantina, come penso per tutta la provincia di Modena, la zona del Lambrusco, è purtroppo una pratica che sta sempre diminuendo di anno in anno. Semplicemente, diciamo, forse negli ultimi due anni con la crisi sta subendo un rallentamento minore rispetto a quello che aveva gli anni precedenti. Questo noi riteniamo perché imbottigliare il vino serve lavoro, serve tempo, servono cantine, servono cose che magari la vita moderna lascia meno spazio. Quindi non ho capito, cioè lei dice c'è una diminuzione del vino in Damigiana? Sì. Sì. Quindi è un fenomeno contrario a tutta Italia? Ma nel senso, noi veniamo dalla zona del Lambrusco, dove diciamo già la Damigiana richiede una parte finale di lavorazione, certo. Il vino del vino deve venire in Damigiana. Devo dire che negli ultimi due anni, dal 2008 in avanti, non vi è una diminuzione, ma è quasi costante. Certo, mentre si veniva da anni in cui vi era una diminuzione costante della... Bene, grazie Piccinini, grazie di questo suo così intervento, perché porta, come posso dire, in questa discussione un qualcosa di diverso da riflettere. Sentiamo Flora da Verona. Buongiorno Flora. Buongiorno, senta, intanto mi congratulo per la trasmissione che ascolto sempre con interesse. Desideravo segnalare la mia esperienza in riferimento all'acquisto di vino sfuso. Sicuramente non si fa questo per risparmiare sul prezzo. Diciamo che non ora, ma nei tempi passati, qualche anno fa è venuto a mancare mio marito, andavamo sempre con le damigiane da riempire, specialmente presso le cantine piemontesi. Era una grande soddisfazione perché si riempivano le bottiglie, le tappavamo con tappi idonei, applicavamo delle etichette con riportata la qualità, la data della vendemmia, la gradazione, la data di imbottigliamento. Quindi certamente tutto questo si fa per passione, perché certo, alla fine penso che si spenda di più e non di meno. Bene, anche viaggio, nell'andare a fare tutto questo. Anche questo può essere un aspetto interessante, sì. Ha ragione Flora, non avevamo completamente dimenticato che anche il costo alla fine, chilometri fatti e tutto l'acquisto di bottiglie ed altro, sicuramente pesa, come pesa per un produttore, diciamo, comprare la bottiglia, il tappo, l'etichettatura. Grazie Flora. Ora andiamo in Basilicata, andiamo nello splendido Vulture, andiamo da Antonio direttore commerciale della cantina di Venosa. Buongiorno Antonio. Buongiorno a lei Davide. È molto diffuso nel vostro territorio, cioè la vendita del vino sfuso? Sì, diciamo che la nostra azienda è dal 57 che è in loco, quindi sono 54 anni che l'azienda sta puntando anche sul discorso del vino sfuso. Il vino sfuso potenziando anche alcuni punti vendita, infatti noi come azienda nel corso di, soprattutto nell'ultimo decennio, abbiamo diciamo attraverso la collaborazione di alcune persone abbiamo aperto dei punti vendita dove diamo la possibilità al consumatore di acquistare anche diciamo il vino giornaliero, cioè per la giornata, anche il mezzo litro. Io penso che nel corso di questi ultimi anni, diciamo, la vendita dei vini sfusi è salito. Il primo fattore è sicuramente il discorso, diciamo, crisi, ma il secondo fattore è legato soprattutto ad un aumento della qualità di questi vini sfusi che vengono venduti. Infatti quando ci sono eccedenze in azienda, ovviamente le aziende dirottano ovviamente i vini di grande qualità anche, diciamo, verso la vendita di questi vini sfusi. Poi c'è un contatto diretto, noi per esempio abbiamo uno spazio aziendale dove tante tante persone vengono praticamente ad acquistare con la vecchia damigiana, certo, diciamo, i vini. Bene. I nostri vini, in particolare Mutlaglianico del Vulture. Grazie, abbiamo avuto anche questa testimonianza della Basilicata. L'ultimo radioascoltatore, Angelo da Milano, buongiorno, veloce Angelo. Sì, buongiorno, mi chiamo Angelo, sono un rappresentante di Vini di Milano. Sì. Allora, io volevo fare due veloci, intanto distingo... Velocissimo, perché ho 30 secondi, Ok, allora niente, volevo dire che il vino alla spina sicuramente ha avuto una spinta in alto per la crisi economica, perché costa molto meno, se sei in due puoi prendere anche solo il mezzo litro, ed è sicurissimo perché gli impianti di spillatura sono tutti di proprietà delle grandi multinazionali della birra, sono le stesse che poi quindi vendono i fusti di vino. E di conseguenza sono assolutamente certi. La tecnologia oggi ha anche portato una crescita in termini di qualità del prodotto stesso. Bene, quindi... grazie Angelo di questa testimonianza. Diego da Milano, 10 secondi. Sì, volevo fare una domanda rapidissima, complimenti intanto per la trasmissione. Come mai, appunto parlando di vini sfusi, presi al ristorante, spillati, anche i vini rossi vengono serviti freddi, a temperatura ambiente? E beh, questo... che c'è la temperatura, ovviamente bisogna vedere dove vengono conservati, quindi il problema è questo, ma molto meglio che siano un po' freschi che siano molto caldi, sicuramente. Poi non so se c'è una ragione tecnica. Grazie comunque a Diego da Milano. Bene, abbiamo chiuso questo viaggio tra damigiane, vino sfuso e vino al fiasco. Io vi saluto, ringrazio Peter Bescapè, Anita Panizza e Viola Bottoni tutti i giorni con la pillola del gastronauta alle 11.05 e 23.05.